Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, 11:11, restate con me, staremo bene insieme, ma troveremo il modo per stare meglio con un metodo naturale, privo di controindicazioni, che assicura benefici certi e visibili. Io per mettervi sulla strada vi do tre indizi: aumenta la fiducia in se stessi, aiuta a rilassarsi, dà più grazia ed eleganza. Ne aggiungo anche un quarto, che poi verificheremo, secondo me aiuta anche a bruciare calorie, quindi anche aiuta a dimagrire. Provate ad indovinare, vi do poi anche un piccolo aiuto, forse può darcelo il nostro dottor Confalonieri, che è qua con me in studio e che ogni venerdì ci aiuta a mantenerci in forma. Dottore, buongiorno. Bah, è anche divertente, aggiungiamo quest'ulteriore indizio e poi vediamo se i nostri ascoltatori a questo punto hanno capito di cosa parleremo. Di cosa si tratta esattamente? Si tratta esattamente di perdere tempo con un'attività totalmente improduttiva. Quando mai questi ragazzi faranno il ballo da sala? Lei viene in questa scuola, ci parla dei nostri ragazzi, dei nostri problemi e come li risolve col passo doppio. No, ora glielo faccio vedere. Augustine, per favore, potrebbe... Signor Dulay, è una cosa assurda. Augustine... Joe, sta zitto, il corpo è mio. Dobbiamo solo muoverci. Ecco, proprio così. Sì, molto semplice. E ora faremo una piccola camminata. Sì, cammineremo, stiamo camminando. Stiamo camminando? No, stiamo ballando. Se sa camminare, sa anche ballare. Vedete? Se lei mi permette di guidare, ha fiducia in me. Ma ancora più di questo, ha fiducia in se stessa. Ora... Se la vostra figlia sedicenne è forte e sicura e ha fiducia in se stessa, come può permettere che un idiota qualsiasi le manchi di rispetto? E se vostro figlio impara a toccare una ragazza con rispetto, come tratterà le donne per tutta la sua vita? Insegno danza e con essa una serie di regole che insegnano ai vostri ragazzi il rispetto, il lavoro di squadra e la dignità. Con un estratto dal film Ti va di ballare del 2006 con Antonio Banderas, dottor Confalonieri, lei l'ha visto? È magnifico. Ho visto il film, l'ho trovato molto bello e questo stralcio che avete individuato è davvero bellissimo c'è già dentro tanto della danza ed è commovente anche in un certo senso, molto bello. 800 24 00 24, se la febbre del ballo vi ha contagiato, chiamateci, raccontateci come è andata, cosa ha fatto scattare la passione, invitiamo i ballerini veri o quelli che si sentono o vorrebbero essere tali, anche se i loro piedi ancora non lo sanno. C'è chi dice che il ballo cambi la vita, e voi che ne dite? Vi ha cambiato? È capitato anche a voi? Il nostro numero verde è a disposizione, 800 24 00 24, ma anche i messaggi che arrivano, molti di voi avevano già subito indovinato il tema della puntata. È vero che c'è anche il profilo Facebook che aiuta, però... 349-238-6666. Attenta, la cosa che ti devi ricordare nei salti è l'equilibrio. Dove hai imparato a ballare? Beh, è successo che stavo senza far niente e un tizio un giorno mi vede e mi fa: senti un po' tu, c'è Arthur Murray che sta cercando gente nuova. Così sono andato e lui mi ha insegnato prima a ballare e poi col tempo a insegnarlo agli altri. Che cosa? No. Dottor Confalonieri, lei se lo ricorda, grande film, eh? Dirty Dancing, direi. Ci siamo tutti un po' innamorati. Sì. Lei chi avrebbe voluto poi essere? Un po' dei nostri tempi, un po' dei Parli nostri per tempi. Lei. Intanto abbiamo un insegnante, una ballerina ai nostri microfoni. Io avrei voluto averla qua in studio perché lei è a Milano e proprio ieri ha debuttato al CHAC. Ma ci facciamo raccontare tutto da Samantha Togni, che è in linea. Ciao Samantha. Buongiorno a tutti. Che bello svegliarsi con queste citazioni, questi bei film. film è bellissimo, bellissimo. Vero? Buongiorno. Ti sei subito mossa, hai fatto un passetto di danza. Poi Dirty Dancing è nel cuore di tutti, quindi certo. È veramente commovente, davvero. Allora, milanese, ma purtroppo non qua in carne e ossa, anche se devo dire che la redazione maschile di Radio 24 era, io ieri ho detto, forse riusciamo ad avere Samantha Togni, ed erano tutti improvvisamente molto gentili, mi dicevano a che ora vengo, Nico, hai bisogno, e oggi ho dovuto dire non ma ce la fa, perché dire. Però magari dai, organizziamo un'altra volta, volentieri. Io sto qui fino al 28 di novembre, quindi con tutto questo danzando, con la commedia musicale al Ciak abbiamo debuttato ieri, quindi sicuramente in questi 10 giorni un giorno troveremo, no, che potremmo rincontrarci. Volentieri vengo a trovarvi, guarda. Senti, quante ore si allena una ballerina professionista? Allora, dipende dal periodo, nel senso dipende da cosa uno deve fare. Se non ha obiettivi tipo appunto di spettacoli, show, eccetera, può fare anche 1-2 ore al giorno, ma sotto spettacolo invece le ore aumentano, quando soprattutto devi preparare uno spettacolo. Per esempio, nel nostro spettacolo in particolare, tutto questo danzando, durante la preparazione abbiamo fatto giornate terrificanti, dalla mattina alla sera in sala prova, anche perché oltretutto, oltre a ballare, lì c'era anche la parte recitata, quindi c'era un tot di ore dedicata alla recitazione e 4-5 ore dedicate alla danza, quindi devo dire che sono ritmi abbastanza pesanti e forse neanche so, cioè il dottore ha sentito, neanche credo molto salutari, perché fatto a questo livello so che non è poi così buona a livello anche di salute. Samantha, perché tu hai toccato veramente un tasto, perché il dottor Confalonieri è molto contento di questa domanda, perché lui sostiene che oltre alla gradualità ci voglia anche un buon senso, un equilibrio, l'esagerazione insomma non paga. Certo, no, voi siete professionisti e così e succede per gli atleti, però dai tempi diciamo, e quindi è una cosa, ovviamente per chi lo fa come divertimento, come appunto per sfogo, come palestra diciamo, sicuramente non servono tutte queste ore. Dottor Confalonieri, può essere una palestra? Ma è una palestra, sì. È una palestra, tutti proprio assolutamente sì, ne sono convinta, è una palestra fisica e mentale, perché comunque sia si sa che mente e corpo vanno ovviamente a braccetto, no? Quindi quando stai bene fisicamente o viceversa, quando stai bene di testa poi si rispecchia anche nel fisico, fisicamente perché si bruciano tante calorie, è un'attività fisica a tutti gli effetti, quindi comunque ritmo e comunque coordinazione, è comunque un'attività fisica fatta con il sorriso, è questo sorriso che ti fa palestra mentale, perché comunque sia lo fai in modo allegro, lo fai senza pensare troppo a dover bruciare, non è una, mentre la palestra a volte, poi è un piacere anche quello, ci mancherebbe, però molto spesso si fanno degli esercizi perché dici mannaggia devo bruciare, quindi questo devo bruciare, questo obiettivo che c'è in testa è come invece nell'abbraccio, dottor Confalonieri, uno non se ne accorde, brucia calorie e forse anche un po' passione, perché ci si innamora anche danzando, dottor Confalonieri. Ma sì, ha detto già tantissime cose molto molto giuste, molto belle, Samantha. Io direi innanzitutto rispondo alla sua domanda iniziale, 2 ore tutti i giorni no, grosse controindicazioni non ce ne sono, è anche un po' il tempo che qualsiasi atleta professionista dedica al suo sport, quindi non ci sono grossi problemi. Indubbiamente quando si arriva alle 8, 9, 10 ore allora le controindicazioni aumentano, ma io penso, e questa è una domanda che potrei fare a Samantha, io penso che loro comunque abbiano delle strategie, dal fisioterapista all'osteopata, allo stretching, all'allungamento muscolare o a sport alternativi che riequilibrino e compensino il sovraccarico specifico della danza per superare queste fasi. Cosa fate voi quando il sovraccarico diventa eccessivo? Rispondo, sì. E purtroppo abbiamo poco tempo di fare altro perché siamo talmente impegnati in sala danza che non c'è grande tempo, però se possiamo sì, massaggi a volte, massaggi appunto per le contratture che inevitabilmente vengono, però diciamo che sono sempre, quando capitano questi periodi arrivano e ti riempiono talmente tanto la giornata che non hai veramente tempo di fare altro, infatti secondo me non è giusto, cioè non è una cosa sana questa che però questa noi che vogliamo oggi sapere dai nostri ascoltatori che che cosa e come il ballo, la danza li ha cambiati, perché hanno iniziato, si, magari si inizia proprio per socializzare, per passatempo, per staccare la spina, e poi i vantaggi si conoscono passo dopo passo, dottore. Sì, due brevissime considerazioni. Intanto volevo dire, diceva prima Samantha giustamente che si brucia, ci si mantiene in forma, ci si allena quasi senza accorgersi. In questo la similitudine che abbiamo sentito anche nella citazione del film di prima tra danzare e camminare è una similitudine assolutamente corretta. Sono due attività naturali, due attività che aiutano a vivere meglio, due attività divertenti e che ci fanno stare bene senza l'ossessione di dover stare bene. E quindi volevo appunto cogliere questa similitudine. Poi un'altra cosa, io inviterei anche a telefonarci tutti quegli ascoltatori che sento più vicini a me, che magari sono tentati anche spesso di cominciare con il ballo e con la danza, ma non lo fanno, non hanno il coraggio di cominciare, non cominciano. Vorrei che ci raccontassero o ci scrivessero perché vi piacerebbe, ma perché non cominciate, non provate, non vi mettete in gioco, non vi mettete in pista. 800 24 00 24 e i messaggi al 349 238 6666. Samantha, comunque negli ultimi anni sempre più persone sono state contagiate da questa passione per il ballo, sicuramente anche complici trasmissioni come certo. Ballando con le stelle, amici, si iniziano, c'è chi si butta sul balli da sala, chi preferisce il tango. Secondo te come si può passare dall'uno all'altro? È meglio iniziare da, che ne so, il valzer, il foxtrot e poi deviare verso il tango, o uno scegliere liberamente? Ci sono delle indicazioni che tu come maestra puoi dare ai nostri ascoltatori che vogliono magari buttarsi in pista? Ma guarda, il mio consiglio è quello un po' di seguire le proprie predisposizioni, nel senso che uno deve iniziare con una cosa che gli piace. Il tango per esempio è bellissimo, il tango è bello per tutte le età, è una cosa elegante, anzi forse più si fa da grandi e più ci si mette quell'esperienza con giovane magari non ha, no? Che a cui manca inevitabilmente, quindi il tango è bellissimo da vedere, da fare, da vivere proprio, ma tutti gli altri balli sono belli, quindi dipende un po' anche dal proprio spirito, cioè chi predilige e preferisce il latino americani, quindi uno spirito un po' più movimentato, e chi invece è un po' più passionale, magari anche un po' più lento nell'approccio con la danza, diciamo, dipende un pochino come uno vuole affrontare questo nuovo mondo. Ce n'è per tutti, ce n'è per tutti e per tutti i gusti, quindi ci sono tantissimi balli, ci sono tantissimi maestri, insegnanti, scuole, e quindi una buona scuola ovviamente riesce anche a capire forse un po' la personalità, perché ci sono delle cose che vanno fatte graduali ovviamente, perché una persona timida non va messa in pasto ovviamente agli squali, nel senso che il primo gradino è sempre quello dell'approccio, un po' quello mentale, no? Nei confronti della danza, come diceva prima il dottore, appunto spesso ci sono persone che vorrebbero ma non lo fanno perché hanno paura di ridicolizzarsi. Ecco, ci sono tante ragioni, proprio è la timidezza, è anche proprio una percezione sbagliata del proprio corpo, ci si sente goffi, dottore. Esatto, infatti volevo fare questa domanda. Esatto, molto... nel senso che è questo il motivo, sì, per sì, cui lei non balla. Sì, è uno dei motivi fondamentali per cui non si balla, stiamo sul generico, ma volevo fare proprio questa domanda molto specifica. La persona poco allenata, quella che si stanca subito, quella in sovrappeso, da quali balli tutto sommato sarebbe meglio cominciare? E viceversa, la persona magari anche allenata ma assolutamente imbranata, quella che non sa gestire il proprio corpo o pensa di non sentire la musica, da dove convenga che comincia? Ci può dare una mano in questo senso? Certo. Allora, la persona sovrappeso ovviamente non può inizialmente partire con balli troppo ritmati, con balli troppo veloci, perché non è giusto e non è salutare. Non gliela fa, dice il dottor Confalonieri, anche se si vedono anche delle persone. A me capita di vedere le persone decisamente in sovrappeso, cicci, come si dice, sembrano delle piume. Assolutamente, vero? Guarda, perché l'aspetto fisico non è poi così, non c'entra nulla con la presenza predisposizione alla danza. Anch'io ho conosciuto persone in sovrappeso che sono veramente bravi ed è un piacere vederli ballare, quindi questo sfata il mito che è solamente la magra, e ho visto viceversa persone magre assolutamente tronche, cioè che non ce la fanno a conciliare. Perché ci sono, io ne conosco diverse. Infatti, senti, però da che cosa si comincia? Da allora, quale diciamo, facciamo una persona un pochino passo, sovrappeso passo. Io partirei con un ballo un po' più lento, che tipo? potrebbe essere il valzer, potrebbe essere comunque, anche se uno gli piace il liscio, dipende come insomma, dipende appunto dai gusti, potrebbe essere il cha cha cha, comunque che è un ballo un po' ritmato ma non è eccessivamente, tipo il jive che è un ballo molto veloce, beh quello lo lascerei un po' più avanti dopo, quando siamo un po' più sfilatini, quando siamo un pochino più più sfilatini e più resistiamo di più, soprattutto salsa stessa anche abbastanza movimentata, un merengue più lento, più è più tranquillo, vanno fatte le cose graduali, e così anche per chi è un pochino anti-danza, anti-ballo, cioè per chi non riesce a conciliare testa, gambe, musica, corpo, che ce ne sono tante, io ne ho conosciute diverse, devo dire la verità, anche lì bisogna partire graduali, pian piano, e far realizzare, perché molti non hanno proprio il controllo e la consapevolezza del proprio corpo, e questo forse dipende da una questione culturale, una questione di predisposizione. Samantha, sentiamo Lucio, ci sta chiamando da Arezzo all'800 24 00 24, vediamo, sentiamo se è un ballerino o se magari gli è venuta la voglia. Lucio, buongiorno, Lucio, buongiorno. Certo che sono un ballerino, ogni tanto vi inondo di SMS che balla, che vi passa. Senta, se passa da Milano venga, che dà anche due un po' di lezioni al dottor Confalonieri, oltre a far ballare me. Io inizio con un proverbio che, siccome si parla dei problemi di timidezza dell'uomo, il proverbio dice: là dove gli uomini ballano, per le donne è tutta un'altra musica. Bello! Allora, mi piace, relazione. La vera relazione fondamentale è il ballo di coppia. A questo livello superiore il rapporto uomo-donna cresce ad ogni abbraccio. C'è una crescita relazionale, di personale e di sicurezza. Perché non l'uomo... altra cosa che possa eguagliarlo, non c'è altra possibilità nella nostra società. Cioè, sentite bene questa qui, sì, io no. Sto leggendo due righe. Nella nostra società, paragonabile a questo, nel ballo di coppia saltano tutti i parametri di comportamento cosiddetti normali. Ditemi voi se conoscete altra circostanza che ci consenta di poter abbracciare ad ogni ballo qualsiasi voglia perfetta sconosciuta. È la vero, donna che fino ad allora mai vista, della quale ignoriamo nome, provenienza e tutto, esiste improvvisamente, ce l'hai tra le braccia e la conduci. Praticamente gira tutto questo, ecco il ballo di coppia cos'è, non la discoteca. Lucio, il ballo di coppia è una relazione continua, ogni fine settimana uno cresce perché conosce. Si può avere anche però una ballerina fissa, Lucio, no? O è meglio cambiare? Ma no, c'è bisogno. Ma perché la ballerina fissa? Cambiamo, change la femme. Noi dobbiamo salutarla, Lucio, perché andiamo a sentire i mercati, il meteo, e intanto la ringrazio. 800 24 00 24, anche oggi il nostro consiglio di lettura, che è Lezioni di ballo, Garzanti editore, sarà consegnato a casa all'ascoltatore che manderà il messaggio più... in ritmo, possiamo dire, con il pensiero di oggi, e quindi è il ballo un po' che ti cambia la vita, come la cambia, perché te l'ha cambiata, al 349-238-6666, a tra poco. In generale la mia politica è rigidamente niente ballo, ma se lei te lo chiede non puoi dire di no. Ballare è l'unica cosa che non mi preoccupa, ma se è pieno di gente magari... Scusami, detesto fare il pignolo, ma devo essere esauriente, quindi... Fammi vedere perché non ti preoccupa il ballo. Fidati. Ti servo subito. Cammino sulla spiaggia. Lo vedi come aumenta? Adesso comincio ad accendere un fuoco. Ma i piedi vanno. Accendo il fuoco, faccio la pizza. E anche non bastano mai. Non è mai troppo. Dopodiché, Cotton Fioc. Cotton Fioc. Non ci riprovare, per nessuna ragione. Mi hai sentito? Mi stavo solo esprimendo. No, non certo in quel modo. Ritmo, passione, musica, danza, insieme oggi a Samantha Toni, al dottor Confalonieri, e abbiamo Patrizio da Padova. Buongiorno. Buongiorno, io sono... sono arrivato al ballo a 48 anni. Quindi non è mai tardi, vero, per iniziare? Assolutamente no. Oh. E come mai ha deciso di ballare, Patrizio? Ma guardi, è stata una vacanza al mare e c'era una musica dal vivo latinoamericana o caraibici, adesso non so bene come, cioè c'è questa discussione. Ed era un divertimento assoluto vederli ballare. Abbiamo detto io e mia moglie non possiamo non essere così al di fuori di queste feste. E allora da lì è cominciata ed è diventata una passione. Ci siamo iscritti alla FIDS con maestri che ci hanno seguito e tuttora vorremmo sviluppare ancora di più, perché comunque abbiamo notato che non è solo un benessere fisico, ma anche mentalmente ti libera da preoccupazioni, da pensieri, ti fa star bene. E quindi è proprio un modo per staccarsi dalla quotidianità, un relax, ritagliarsi uno spazio anche per la coppia. Molti messaggi mi arrivano dicendo che, e questo Samantha me lo devi dire anche tu, se il ballo è veramente un buon integratore di coppie, non dico che sia terapeutico per coppie in crisi, ma si scoprono anche lati, dimensioni, passi di questo rapporto che magari proprio attraverso il ballo scopre delle sfumature diverse. Samantha? Condivisione proprio, anche condivisione di uno stesso hobby, una stessa passione, ma è una cosa bellissima. Secondo me io vedo molte coppie anche che vengono, persone appunto sposate da anni, è un modo proprio per riavvivare un pochino la coppia, dà quel tocco, quell'allegria, quel punto in comune che magari vanno a casa, si allenano, magari discutono anche, ma hanno qualcosa su cui discutere di diverso, di allegro. Quindi secondo me è assolutamente vero ed è assolutamente buono per la coppia. Però molti dicono: mi piacerebbe ballare, dottor Confanonieri forse l'avrà detto anche lei, però sento la musica ma non sento il ritmo, i piedi non seguono, insomma c'è qualche cosa che non va, non ho orecchio. Erika Sibillo, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei di orecchio ne ha invece, medico ed esperto di musicoterapia. Sì, sicuramente questa è la frase più classica e comune che si sente dire, e vorrei subito cancellarla, perché tutti noi possediamo il ritmo. Vi spiego perché. I più grandi musicoterapeuti hanno coniato una frase meravigliosa, ovvero che il nostro cuore è il più grande batterista di un'orchestra. Oltretutto l'orecchio è il direttore d'orchestra che guida tutto quel meccanismo di ricezione degli impulsi sonori. Ora, forse noi siamo poco abituati ad ascoltare. Che cos'è l'arte dell'ascolto? L'arte dell'ascolto non è una cosa semplicemente tecnica, ma è soprattutto funzionale. Cioè, cosa vuol dire? Ascoltare significa predisporre tutto il proprio corpo alle vibrazioni acustiche, alle emozioni che ci derivano dai suoni, quindi un coinvolgimento attivo anche riguardo all'ambiente esterno, che questi stimoli ci arriveranno e poi sarà compito del nostro cervello elaborarli. Allora, io vorrei dare un piccolo esercizio da fare che sono sicura chiunque può fare. Brava, perché a me piacciono gli esercizietti, compitini. Esatto, senza strumenti particolari o cose varie. Ok, così partiamo. Ci alleniamo un momentino. Allora, prendete un tamburo. Oh mamma mia, non ho il tamburo a casa, cosa brava. Faccio? Infatti il dottor Confalonieri ha strabuzzato gli occhi, perché è un po'. Allora io lo si prende una pentola. Molto esatto. Su un po' di fantasia. Qualsiasi cosa. Ma perché poi sono maschi? Ecco, due bastoncini. Non so, avete presente il bastoncino del ghiacciolo? Ecco, quello va benissimo. O quelli delle bacchette cinesi, del ristorante cinese che tutti ci portiamo a casa, no? Fantastico, ecco, quella lì va bene. Vi mettete lì, se dubitate della vostra capacità di suonare il tamburo, io vi ricordo che non potete assolutamente sbagliare. All'inizio vi sembrerà un po' monotono, ripetitivo, continuate l'esercizio per qualche minuto, vedrete che chiudendo anche gli occhi e individuando, se ci riuscite sarebbe fantastico, il battito del vostro cuore, voi piano piano troverete un ritmo che oltretutto si accompagnerà a quello proprio del nostro cuore. E voi stessi radioascoltatori insegnate a me che questo è fonte di benessere. Quando si dice a una persona tu non possiedi il ritmo, tu sei stonato, quante volte l'abbiamo sentito dire? Tutti, la maggior parte delle persone ci crede. Avete avete detto molto bene prima, quello che conta è anche riacquisire l'autostima in se stessi, fare un semplice allenamento partendo dalle cose più a portata di mano per poter reinserirsi nella musica. Del resto il ballo senza musica non potrebbe esistere. No, certo, quindi riprendiamo il ritmo, cerchiamo di capire, no, che dentro di noi ce l'abbiamo già, e poi non ci manca che trovare un ballerino o una ballerina. Dottoressa Sibillo, lei ce l'ha? Io sì, tanti ballerini. Tanti ballerini. Samantha. Un ballerino per ogni musica, direi. Bene, così ci scapricciamo un po'. Samantha, ma sono più, ballano meglio, adesso non per fare, ma hanno più facilità a iniziare a ballare, a prendere il ritmo, a muoversi, a riconoscere proprio il corpo, gli uomini o le donne? Perché forse sai, anche per cultura un pochino le donne, ecco, perché volevo che lo dicessi tu, perché sennò sì. Ma secondo me è proprio un blocco culturale maschile, da sempre si è sempre detto che l'uomo che danza, che balla, un po' di pregiudizi ci sono sempre stati, e nonostante ora siamo nel 2010 devo dire che continua a starci, nel senso io ho un bambino maschio di 9 anni e vabbè, ora lui fa hip hop, però comunque sia quando magari fa hip hop e gioca a calcio per bilanciare le due cose, però devo dire che ancora quando dici tra di loro maschietti faccio danza, un pochino vedi la reazione, no? Questo dimostra appunto ovviamente i bambini nascono in una circostanza e quindi crescono con delle basi, delle culture che i genitori e l'ambiente dà. Evidentemente questo senso un po' di pregiudizio ancora c'è, nonostante gli anni passino e nonostante si dice, no, che si sta andando avanti, ma in realtà in alcune cose ancora rimane, e quindi si vede anche nell'approccio con la danza e anche con però scioglietevi. Io sciolgo la dottoressa Sibillo, che so che deve tornare in reparto. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Grazie, buon ballo anche a lei. Dottor Confalonieri, la vedevo particolarmente interessato. L'abbiamo convinta? Adesso balliamo io e lei? Sì, ma lì quasi ci siamo. Se si è finita la trasmissione, proviamo a improvvisare. Partiamo con gradualità, con un ritmo lento, no? Direi che anche per l'esperienza che faccio professionalmente nello sport o occupandomi di alimentazione, di nutrizione, una grande differenza che si riscontra tra l'uomo e la donna è la capacità di interagire con la propria corporeità. Indubbiamente la donna è molto più predisposta a utilizzare anche il corpo come strumento di comunicazione e quindi a ballare. L'uomo ha questa difficoltà sicuramente maggiore, perché tende normalmente a negare la propria corporeità e a comunicare attraverso altri strumenti. E poi comunque nel ballo, Samantha, l'uomo porta, si dice così, l'uomo conduce, per cui deve anche imparare bene i passi. Solo nel ballo ormai. Solo nel ballo. Dice Franco Confalonieri. Ormai conduce solo nel ballo e ormai i ruoli ci sono bene solo nel ballo, però teniamoci almeno su quello, lasciamoci condurre. Io vorrei leggervi però alcuni degli sms riguardo appunto all'intesa nella coppia che può creare il ballo, intesa o invece divisione, perché il ballo sarà la causa del mio possibile divorzio, perché io devo ballare perché lei vuole ballare, amo la musica ma odio il ballo, scusate. E Fabrizio davvero Verona ci scrive: cosa si fa quando ce n'è uno su due a cui piacerebbe ballare da una vita e questo ha dovuto rinunciare? Viva il ballo anche da soli, facendo i lavori di casa. Fabrizio da Verona, che si manterrà sicuramente in forma proprio ballando. Andrea da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Andrea, sa che io adesso, lei sia lì, io la saluto, perché adesso noi insieme ad Andrea da Firenze, che tempo fa a Firenze? Piove, ecco. Piove. Bene, qua invece c'è il sole, vediamo invece che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e poi torniamo con Andrea da Firenze al 800 24 00 24, se volete intervenire anche voi. Andrea, rieccoci insieme. Eccolo. Buongiorno. Buongiorno. Io ho iniziato a ballare con mia moglie, diciamo, 9 anni fa, più no, sì, 9 anni fa. Abbiamo smesso abbastanza velocemente perché si vede che ha agevolato l'affinità di coppia, l'armonia, mia moglie è rimasta incinta, quindi dopo un paio di mesi che avevamo iniziato a ballare latinoamericano. Come l'avete chiamato il bambino? Alessia. Pensavo che vi foste ispirato ad un... No, però abbiamo mantenuto la passione perché comunque volevamo tornare. Siamo tornati quando la bambina era più grande, l'abbiamo portata qualche volta con noi, delle volte andava dai nonni, però mia moglie dopo poi è rimasta incinta la seconda sì, volta. Sì, no, ma allora senta, non lo dica, meno male che lei si è presentato solo come Andrea. Attenzione, nelle piste, nelle balere intorno a Firenze c'è un Andrea, perché se lei ogni volta che balla mette incinta la sua ballerina. Bene, ma questo Andrea, però rimane la passione, quando sarà più grande il secondo non so, ma lei continuate a ballare, poi vi invitiamo a questa casa, non è un albergo, quando parleremo di famiglie numerose. Grazie. Noi arrivano molti messaggi per ricevere a casa il libro Lezioni di ballo, quella frase che più piacerà al dottor Confalonieri, che devo dire che però leggendole le ha già scelte, ve la svelerò tra poco, la scelta difficile perché voi siete sempre molto bravi, ma noi vogliamo anche parlare, è emerso già abbondantemente nel corso delle nostre chiacchierate con Samantha e con gli altri ospiti, di questa che possiamo definire un po' la psicologia del ballo. Abbiamo in linea con noi Maria Cristina Volpi, che è psicologa e insegnante di danza. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Allora, proprio il ballo può avere una funzione terapeutica quasi, no? Ad ognuno il suo ballo. Cerchiamo di capire, al di là delle attitudini, delle preferenze musicali, quale ballo farebbe al caso nostro, quale riuscirebbe così a farci lavorare su alcuni lati della nostra personalità, del nostro carattere, che facciamo magari fatica, no? a far emergere. Assolutamente. Iniziamo dai latinoamericani, che così vediamo se anche Samantha è d'accordo. Sprigionano energia. Va benissimo, infatti diciamo che i balli caraibici, latinoamericani in genere, quali la salsa, il merengue, il mambo, la bachata e il cha-cha, sono tutte danze che potremmo definire emozionali, ossia fanno emergere le pulsioni più intime delle persone, quindi io le penserei adatte, potrebbero avere un effetto terapeutico per quelle persone che utilizzano generalmente il verbo dovere, ok? Quindi che sono tendenzialmente bloccate, inibite, riservate e indecise, quindi che hanno un certo timore a lasciarsi andare. Quindi questo tipo di danze sono date appunto perché vanno a stimolare delle energie, ok, che si trovano in specifici punti del nostro corpo, che sono quelli cosiddetti chakra. Punti chakra, esattamente, e in particolare vanno a stimolare il secondo chakra, che è contenuto nella parte inferiore dell'addome, servono a creare una sorta di eccitazione corporea. Vede? Per questo Andrea da Firenze, energia. Scusi, dottoressa Volpi, per questo Andrea da Firenze, dottor Confalonieri, ha detto la passione, proprio perché c'è questo chakrino, c'è questo chakra che stimola tutto, vero? È collegato al desiderio. Qui, attenzione, altra che punto G, no? Dottor Confalonieri, lei che è un dutour, cosa mi dice? No, ma indubbiamente c'è una correlazione tra la capacità di riappropriarsi della propria corporeità e di viverla bene, e quindi una sessualità diversa, proprio perché il rapporto con il nostro corpo è migliorato, e tutto sommato la facilità di restare incinti. Si pensi alle difficoltà che al contrario tanto spesso ci sono quando l'atto sessuale è caricato di tanti, certo, significati diversi. Piano, no? Sembrava uno spunto buffo, ma in effetti è elemento di riflessione invece quello che ci ha raccontato Andrea. No, certo, assolutamente. Samantha, proprio una battuta veloce, perché vorrei poi, abbiamo poco tempo, a parlare anche del tango, ma tutti ormai ballano il tango, è così difficile, eppure, e vorrei chiedere alla nostra dottoressa Volpi a chi è indicato in modo particolare. Samantha, tu sei d'accordo su questi balli caraibici, latinoamericani, la passione per sciogliere, per consigliato a chi dice sempre dovere e invece dovrebbe dire volere? Assolutamente, io penso proprio di sì, sinceramente penso che questi balli latinoamericani, sia caraibici che latinoamericani, tirino fuori quella personalità, quel punto che noi a volte abbiamo dentro e che riusciamo ad esprimere solo ballando. Quindi è una, certo, che Samantha è perfetta perché li balla tutti, balla il tango eccetera, quindi tu sei proprio alla perfezione, dottoressa Volpi. Andiamo rapidamente al tango, a cui mi piacerebbe dedicare un'intera puntata, e poi devo leggere il messaggio che riceve a casa il libro di oggi, lezione di ballo in un minutino, un po' sacrificato, ma il tango sicuramente per la coppia. Bene, sarò velocissima. Allora, il tango, siccome è un ballo molto passionale, che ci si fa trascinare dal cuore nel ballo, sì, diciamo che lo vedo più adatto a quei soggetti che potremmo definire dispersivi, ossia che iniziano mille cose senza portarne a termine neanche una. Ma è utile, attenzione bene, anche a chi non riesce mai ad abbandonarsi completamente, forse per il timore di non essere mai all'altezza delle situazioni. Quindi per quelle donne soprattutto che vivono e si sentono così, diciamo che imparano poco alla volta, perché chiaramente è un processo graduale, a lasciarsi andare, a gestire la loro dipendenza dall'uomo, visto che è l'uomo che comanda nel ballo, ed imparano anche, cosa non indifferente, ad amministrare il proprio fascino e la propria individualità. Bello, cosa dice la tanghera? Accetto di dipendere da un uomo perché, esatto, in questo momento è vantaggioso per me, però gestisco la mia dipendenza, non la subisco, ed imparo ad amministrare il mio fascino e la mia individualità. Voilà, il tango per noi, dottor Confalonieri. Andremo da Samantha, intanto veniamo a vederti, Samantha, al Ciak, tutto questo danzando, e veniamo ad applaudirti. Intanto grazie per essere stata con noi. Grazie, il piacere è tutto mio, e vi aspetto dal, ecco, da anche questa sera. Io sono lì al Ciak. Al Ciak fino al 28 novembre. Ecco, si può anche venire due volte, quindi. Assolutamente, sì. Assolutamente. Grazie alla la danza non manca, e vedrete sicuramente vari risvolti e quello che la danza, il sorriso che la danza può portare. La dottoressa Volpi, la ringraziamo per essere state con noi. Invece Marianna da Firenze riceverà a casa, grazie alla collaborazione con IBS, il libro Lezioni di ballo, la frase: danzando al ritmo dei nostri cuori abbiamo sciolto le nostre anime in un cia cia cia di emozioni. Brava Marianna, ma bravi anche a coloro che ci hanno seguito, avete fatto bene perché starete meglio. Io vi aspetto domani a Questa casa non è un albergo. Buona giornata da Nicoletta Carbone e dal dottor Confalonieri.